ci sia un fondo pensionistico per chi magari ha un problema invalidante come il mio, per chi debba smettere di giocare a pallone. Ma poi non è solo il calcio, io insieme a Vincenzo Maenza, insieme a Valentina Vezzali, insieme anche a sportivi di altre discipline, stiamo portando avanti questo tipo di promozione. So che hai avuto un incontro emozionante e significativo, no? Beh, guarda, io volevo citare Gattuso. Gattuso mi ha telefonato 2 settimane fa dicendomi che lui, mentre era infortunato, ha letto il mio libro e che nelle parole del libro rispecchiava un po' il suo modo di essere. Beh, questo è stato un grande complimento che potevo ricevere dallo sport italiano. Poi, per quanto riguarda l'altra cosa, sì, ho incontrato Armstrong, ho dato il mio libro, ho dato lettera in inglese dove c'era tutto il mio progetto e spero, mi auguro che ci sia di nuovo un contatto più avanti. Però è chiaro che mi ha fatto molto piacere perché comunque ho incontrato una persona che ha avuto una problematica simile alla mia. Flavio, allora, con Francesco Caremani e con il vostro libro l'appuntamento è in libreria. Ve lo ricordo, il titolo Oltre il 90esimo, la storia di Flavio Falsetti, editrice Bradipo Libri. L'altro appuntamento però è in campo, a ottobre. Finito questo ciclo si torna in campo, Flavio, no? Grande festa con tanti campioni dello sport. Ma guarda, io intanto torno in campo perché voglio prendere ulteriormente in giro questa malattia, no? Perché ho sempre detto che dopo 11 anni sono io che decido di smettere, non decidono né i medici né la malattia. Quindi uno dei motivi per cui torno in campo è proprio per dare ancora un'altra umiliazione alla malattia. E poi con Francesco stiamo organizzando una serie di iniziative a partire proprio da ottobre, dal mio rientro in campo, che saranno sicuramente iniziative sia a scopo benefico, ma soprattutto di fare un'operazione culturale che cambi un pochino il modo di pensare delle persone. Ora una breve pausa, poi ancora insieme a bordo campo. A bordo campo di Dario Ricci. Ci sono poco più di 10 chilometri tra Betlemme e Gerusalemme, ma quei chilometri sono un viaggio nell'anima, sono un viaggio in una terra amata, contestata, contesa. Vogliamo ripercorrerli quei chilometri con un ospite speciale, un amico di Radio 24, benvenuto Andrea Zorzi. Ciao, ben ritrovati. Andrea, dicevamo poco più di 10 chilometri, ma un viaggio straordinario che hai raccontato ai nostri microfoni e di cui oggi sentiremo anche molti protagonisti, perché c'è stata un'occasione speciale per correrli quei chilometri, no? Sì, la Corsa della Pace Giovanni Paolo II, giunta alla 6ª edizione e che collega Gerusalemme e Betlemme. Negli ultimi anni si è fatta da Betlemme a Gerusalemme per questioni di sicurezza, ed è un percorso abbastanza breve, ma con questo muro che taglia in due territori, che mette sempre molta ansia. Eh sì, una maratona che è anche poi un ponte, no? Tra due popoli divisi che cercano di camminare faticosamente sulla strada della pace, ed una maratona che porta con sé una fiaccola e anche tante storie, tanti protagonisti. Ma dunque, quest'anno è stata per me un'esperienza particolare perché se il primo anno, 5 anni fa per la precisione, avevo fatto il tedoforo, invitato ad essere testimonial, quest'anno mi sono occupato un po' anche di organizzazioni, facendo riunioni quindi con israeliani e palestinesi, perché forse non lo sapete, ma per far passare i palestinesi in territorio israeliano occorre avere innanzitutto il pass particolare, dare la lista con precisione che l'esercito israeliano controlla, e quindi insomma le riunioni si sono succedute molto velocemente. Padre Faltas, conosciuto da molti perché è stato il mediatore nel 2002 nella Basilica della Natività a Betlemme dei 13 terroristi rinchiusi dentro, è colui in qualche modo che gestisce queste difficili trattative. Proprio padre Faltas, padre Ibrahim Faltas, al tuo microfono ha voluto sottolineare l'importanza che questa iniziativa, ma soprattutto lo sport, ha per la popolazione, per i giovani palestinesi. Sentiamo le sue parole. Prima di tutto non tirano i sassi. Hai visto come adesso molto raro quando vedi un bambino tirare la sassa. Perché? Perché veramente lo sport è molto importante e tanti fanno sport. Anche salvare questi bambini dalla droga, c'è tanta droga. Parlo anche di Gerusalemme, Gerusalemme è piena di droga. Allora è per questo l'importanza dello sport qui in Palestina, in Terra Santa. Insomma, testimonia padre Faltas che il problema non è solo il conflitto, le difficoltà culturali, gli ostacoli a comprendersi, il muro che fisicamente divide questa terra. Andrea, cosa può fare questa maratona? Che messaggio ha lanciato? Dunque, ha tentato di essere un ponte, ispirandosi proprio alle parole di Giovanni Paolo II. In parte c'è riuscita, perché ha fatto collaborare israeliani e palestinesi. I risultati sono forse quella famosa, famigerata goccia nell'oceano. Beh, però direi che proprio padre Faltas ci ricorda un risultato magari piccolo ma importantissimo, direi. Sentiamo. C'è sport tra palestinesi e israeliani, ma non c'è pace tra palestinesi e israeliani, ma c'è sport tra palestinesi e israeliani. Quando corrono insieme, noi siamo usciti dalla guerra di Gaza. Impossibile mettere palestinesi e israeliani, solo tramite lo sport. Se tu farai tutto il possibile di fare una conferenza tra palestinesi e israeliani, non viene nessuno, ti assicuro, se anche da soldi a loro, ma lo sport vengono. Insomma, questa maratona è riuscita laddove la politica finora più volte si è dimostrata fallimentare. Sì, è un punto di giunzione, perché si parla di sport, perché non è una presa di posizione netta né a favore né contro i palestinesi né gli israeliani, e perché alla fine c'è questo messaggio che entrambi vogliono parlare per presentare quella terra santa, Israele e Palestina, in modo un po' diverso da come viene colta. Per esempio, i problemi di sicurezza esistono, ma non sono così drammatici come la maggior parte delle persone pensa. Quindi, in questo senso, entrambi i popoli hanno voglia di supportare per quanto possibile questa maratona. Direi che questo cammino progressivo, anche dall'altra parte del muro, viene evidenziato, no? Viene riconosciuto. Noi abbiamo avuto un referente costante che è Rafik Benur, il direttore del Ministero del Turismo, ed è interessante che sia il Ministero del Turismo a occuparsi della maratona, che non è considerata solo sport, ma è anche un interesse per presentare, come ti dicevo, un'immagine diversa di Israele. Sentiamolo allora proprio, Rafik Benur. Oggi è diverso, non è come 6 anni fa. L'iniziativa di questa maratona ha oggi una grande importanza. Dopo 6 anni abbiamo i risultati sotto gli occhi e dobbiamo avere fiducia nel futuro, puntare a risultati ancora migliori. Dobbiamo puntare ad avere almeno 5.000 partecipanti da tutto il mondo, non solo poche centinaia. Non dobbiamo pensare a ciò che ci divide, a ciò che ancora ci tiene lontani gli uni dagli altri. Obiettivi insomma ambiziosi per la Maratona delle Pace, si spera in 5.000 partecipanti ed è quello proprio che ci auguriamo, Andrea. Al tempo stesso questa maratona, anche dal punto di vista israeliano, è importante per dare un'altra immagine del paese, no, al mondo. Assolutamente, è ciò che Rafik più volte ricorda. Occorre anche dire che quest'anno qualche piccola preoccupazione c'è stata, perché all'inizio della maratona, il giovedì mattina, si è presentato all'apertura il sindaco di Betlemme in pantaloncini corti. Si pensava che il messaggio della sera prima, quando dicevo domani tutti quanti a correre, fosse quasi uno scherzo. Non era così. Il sindaco di Betlemme è arrivato lì con i pantaloncini corti, si è messo a correre ed è arrivato al confine, proprio sotto il muro. A quel punto l'incidente diplomatico di cui si è parlato è legato al fatto che la giunta di Betlemme è di Hamas e Benur, direttore del turismo, non voleva avere nulla a che fare. Ha detto chiaramente: questo è un errore, non ci deve essere la politica di mezzo. Questo ha creato anche quel piccolo momento di tensione che poi si è risolto. Tra i mille messaggi si confrontano anche prospettive e desideri diversi. Per i palestinesi cercare di far parlare di una situazione complicata, per gli israeliani di tenere, se possibile, tutto sotto controllo. Sentiamo proprio dalle parole che ti ha confessato Benur, qual è anche l'obiettivo culturale e politico di Israele attraverso questa manifestazione. L'immagine che abbiamo sui media internazionali sfortunatamente non coincide con la realtà. Israele è un paese sicuro. Chiaro, a volte abbiamo dei problemi, delle difficoltà, ma viviamo in sicurezza. E lo dimostra proprio il fatto che molti dei partecipanti alla maratona tornano ogni anno. Per questo vogliamo fare una maratona internazionale, aperta a tutte le persone, di qualsiasi paese e religione. Situazione particolare, come ci ricordavano le parole di Benur, di padre Faltas, tanti interessi intorno ad una a questi 10 chilometri e poco più, e ricordavamo anche tanti personaggi. In particolare c'è un altro religioso italiano che ti ha aiutato ad entrare nei misteri, nella complessità della Terra Santa, vero? Uno che vive, padre Giovanni, vive in Eirik, piccolo paesino vicino a Ramallah. dove è stato costruito un piccolo centro sportivo dal CSI di Modena, della provincia, dal comune. È un piccolo centro, ma è nato per essere un luogo in cui musulmani e cristiani si incontrano. Padre Giovanni è in Palestina dal 72. Dall'82 ha Einarich ed è uno che effettivamente conosce moltissimo, anche perché ha vissuto momenti di tranquillità pochi e momenti di grande tensione moltissimi. Spesso uno dei luoghi comuni su questa intricata situazione è che non ci sono aiuti, si interviene a sproposito nel tentativo di creare strutture, infrastrutture, organizzazioni. Direi che invece Padre Giovanni ci evidenzia un altro problema: non mancano gli aiuti, manca piuttosto forse una giusta politica a volte nell'utilizzarli al meglio. Sentiamolo allora al tuo microfono. Le possibilità di essere utili a questa terra possono essere tante, gli aiuti che vengono dall'estero non mancano, non si può dire che siano pochi, sono molti. La Palestina, il popolo palestinese è uno di quelli che pro capite ha una delle percentuali più alte di aiuto dall'estero. Si tratta di vedere poi come queste cose sono impiegate e a che scopo. Ora, soprattutto le grandi ONG hanno una politica che è di favorire l'apprendimento e l'iniziativa. Insomma, bisogna lavorare per cambiare le mentalità, Andrea. E Padre Giovanni ci dà anche un prezioso insegnamento per chi, come noi, viaggia in quelle terre per raccontare questa realtà, no? Forse anche noi giornalisti dovremmo imparare un altro modo, quantomeno più modi, per raccontare una terra così complessa, vero? Guarda, a definire i giornalisti lasciamo lo spazio poi nella prossima intervista di Padre Giovanni, però confermo che in questi anni mi sono reso conto che c'è una fatale attrazione a schierarsi, a dirla propria, a volte a sproposito, perché effettivamente quello è un territorio per noi inimmaginabile, per i conflitti a contatto, per la presenza di questioni pratiche con i territori occupati, di questioni religiose irrisolvibili, per la presenza in Gerusalemme di musulmani, cristiani, ebrei, a volte, e poi cristiani a loro volta suddivisi nelle varie confessioni, quindi davvero per noi è difficile. Eppure tutti quanti, la prima o la seconda volta, è come se volessero prendere parte, ed è comprensibile. Perché quando sei in territorio palestinese ti senti un po' schiavo, quando sei in territorio israeliano ti senti doverti un po' difendere e ti viene da dire la tua, ti viene da schierarti. No, questo è sicuramente un errore. Non prendere posizioni, ma soprattutto prima comprendere. Questo forse è il suggerimento che ci arriva direttamente proprio dalle parole di Padre Giovanni. Mi arriva della gente, come capita delle volte, oh, dice che bello Israele. Qui non siamo in Israele, qui siamo in Palestina. Gente che viene da fuori e siccome è entrata dall'aeroporto Ben Gurion e ha preso il timbro di Israele, dice oh, come si sta bene in Israele. Quindi si tratta di rendersi più conto delle situazioni reali in cui vive la popolazione. Lezione da non dimenticare quella che ci trasmette Padre Giovanni, però insomma Andrea, noi amiamo anche lo sport, tu hai portato questa fiaccola tra Betlemme e Gerusalemme e quindi non possiamo non rilanciare l'utopia, non rilanciare il sogno, sogno che spesso passa anche attraverso l'immagine di voi campioni. Ce n'è uno in particolare per cui i bambini palestinesi impazziscono, no? Naturalmente, e guarda caso anche lì il calcio è Non è Andrea Zorzi. No, non gioco a calcio, non ho giocato a calcio. Anche lì il calcio è lo sport più popolare. Sentiamo allora, padre Ibrahim Faltas ha il suo sogno, sta già scrivendo per provare a realizzarlo magari il prossimo anno. Io spero, tanti di questi bambini piacciono Totti. Il loro sogno, anche io ho preparato le lettere, devo mandare a Totti se lui riesce a venire per questo accordo, è veramente perché tutti qui, tutti lo conoscono e lo vogliono bene. Insomma, se Francesco ci ascolta, che si faccia vivo e che raccolga questo invito. C'è anche un'altra utopia che vale la pena rilanciare e arriva proprio dalla pallavolo, no? È un sogno che stai coltivando, chissà mai che in qualche modo in quella terra incredibile non si realizzi anche questo. Ci proveremo, nel senso che il muro tra Betlemme e Gerusalemme è alto 8 metri ed è veramente impressionante. L'idea di poterlo utilizzare come una rete in cui si gioca a pallavolo mi pare molto stimolante. Mi piacerebbe per esempio provare a convincere alcuni dei pittori da murales a fare una grande rete di pallavolo, mettere l'arbitro su una torretta dei militari, il quale controllerà come si gioca, e poi da una parte o dall'altra provare, naturalmente non si schiaccia perché altrimenti nessuno ci arriva, però sarebbe un modo diverso di vedere il muro, il che non significa essere conniventi, perché il muro è davvero una grande ferita, solo che star lì a sperare ad essere troppo idealisti è pericoloso, perché talvolta questo è il rischio di chi arriva dal di fuori, sperare che si possa così risolvere una situazione che ormai è lì da tantissimi anni. Molto realismo e molta attenzione, perché a volte ci si fa in buona fede guidare male. Che dire di più? Grazie ad Andrea Zorzi e allora appuntamento al prossimo anno, alla prossima Maratona della Pace. Grazie a voi e alla prossima occasione. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla nostra mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.